Costanza. Ciao, la mia storia riguarda, vabbè, una grande passione amorosa, è una storia romanticissima dai 15 ai 23 anni, non breve e oltretutto, diciamo, eravamo lontani, io ero a Napoli, lui a Ferrara e abbiamo vissuto questa storia romanticissima, ma anche chiaramente difficoltosa, E dov'è il perché tourbillon? il tourbillon è che poi questa storia è finita per colpa mia, questa persona ha sofferto tantissimo, mi ha scritto tantissime lettere che io al momento avevo voglia di andare avanti, di vivere la mia vita, diciamo, non più legata sentimentalmente a questa persona, quindi ho preso queste lettere, tutte le foto di ben 8 anni di vita insieme, le ho messe in una scatola e le ho buttate in garage. E stanno ancora lì? No, oggi a 38 anni, sono passati 15 anni, sono sposata, ho un bambino di 2 anni e mezzo, ho avuto l'impulso irrefrenabile di rileggere queste lettere, rivedere le foto È esploso il tourbillon. ed è esploso il tourbillon. Praticamente, Sei andata a Ferrara, spero. mentre mio figlio dormiva, ho riletto tutte d'un fiato le lettere di 8 anni di vita insieme. E sono state struggenti le ultime che 15 anni fa Senti, avevo ti letto. trema la voce. Sei pronta all'estremo sacrificio? Spero che da Ferrara ci sia qualche ragioniere, impiegato della pubblica amministrazione questa mattina, stia durante il lavoro sentendo la radio e queste tue parole gli ricordino qualcosa e si riaccenda anche per voi il tourbillon. Non so cosa augurarti di Io meglio. più che altro sto ricercando una mail, un numero di telefono, qualcosa, Fai un perché appello, fai un appello. Devi dire, sono disponibile. Tutto ricomincia come prima.